triste, tanto triste, da dove spendere ogni soldo nelle tasche e da ubriacarmi di sensazione alle imprese. Mi chiedo in fondo a cosa servono le cose. Triste, tanto triste, da dover bere fino all'ultimo bicchiere. Vi voglio raccontare 20.000 scuse per non sentire la tristezza nelle cose, ma tutta la tristezza che c'è vive felice e sorride dentro di me. Tutta la tristezza che c'è vive felice e sorride dentro di me. Triste, troppo triste, da dover correre ogni volta più veloce, perché non voglio più portare questa croce, facendo sempre finta d'essere felice. Triste, tanto triste, girare il mondo ed essere sempre in movimento, in cerca di qualcosa che mi torni il senso. Questa tristezza mi ha nascosto tutto il resto, ma tutta la tristezza che c'è vive felice e sorride dentro di me. Tutta la tristezza che c'è e amore talmente umano che lo puoi toccare con mano. Dammi la tua mano e giochiamo a tutta la tristezza che c'è. Mangiare, bere, far l'amore oltre il normale, per superare questo misero destino di uomo piccolino, stupido e mortale. Triste, tanto triste, e sprofondare fino ad afferrare il senso. Voglio capire a cosa serve tutto questo. Volevo il sale, non tristezza che mi assale, ma tutta la tristezza che c'è felice e sorride dentro di me. Tutta la tristezza che c'è vive felice e sorride anche.